E ben ritrovati da Irene Zerbini, 24 minuti dopo le 8, oggi Alessandro Milan, assente ma tornerà lunedì. Parliamo di giustizia nell'intervista di oggi, partiamo da un appello ripreso e rilanciato ieri dagli organi di stampa. Attenzione, furti e scippi resteranno impuniti perché non ci sono i PM per indagare su questi reati. Partiva da Bari questo allarme che tocca un nervo scoperto, quello della riforma della giustizia, che richiederà tempi lunghi. Ma nell'attesa che fare, se solo a Bari i giudici hanno negli archivi di Palazzo di Giustizia oltre 12.100 procedimenti. Dunque noi abbiamo chiamato l'autore di questo appello, Antonio Laudati, il procuratore, per sentire se davvero saremmo costretti a Bari non solo a gettare la spugna. Buona giornata dunque. Buongiorno, buongiorno a tutti. Secondo una sua denuncia, a Bari si archiviano 3 procedimenti penali ogni ora, 72 al giorno, 12.000 nei primi 6 mesi di quest'anno. E c'è da scommettere poi che la situazione non sia molto diversa altrove. Provate ad andare a denunciare uno scippo a Milano e un furto in appartamento. Ma dunque, procuratore Laudati, che fa lei? Dichiara la resa? Assolutamente, il nostro è un ufficio in prima linea dove cerchiamo di dare delle risposte concrete ai cittadini per quanto riguarda il problema della giustizia. Io sono partito dall'analisi di un dato, che è stata un'estate caldissima a Bari, dove in un ufficio dove ci sono in servizio solo 24 magistrati e quindi di turno d'estate ci sono 2-3 magistrati al giorno, noi abbiamo avuto in poche settimane 9 omicidi, 6 tentati omicidi, 5 ferimenti, 2 sparatorie, in più 4 omicidi gravi nella zona di Foggia, che è della procura nostra distrettuale, legati ai fenomeni della mafia carganica. E nell'ufficio sono state fatte, come dire, degli sforzi straordinari per cercare di dare le risposte. In quasi tutti questi casi sono stati individuati gli autori ed arrestati, però contemporaneamente ho dovuto constatare che c'è stata un'esplosione durante quest'estate nel distretto di Bari degli scippi, dei furti in appartamenti, soprattutto dei furti delle auto. E la mia amara constatazione è stata che purtroppo non abbiamo potuto dare a questi reati la stessa attenzione, lo stesso impegno, proprio perché eravamo costretti da altre emergenze. Quindi, procuratore Laudati, di fronte alla carenza di pubblici ministeri, reati come furti, scippi, rapine non avranno mai un condannato e forse neanche un'indagine, perché, come lei denuncia, poi tra l'altro la sua denuncia è stata ripresa da tutti gli organi di stampa nazionali, lei deve dare priorità alle inchieste su omicidi e criminalità organizzata? Purtroppo nei reati contro il patrimonio, questi sono i dati nazionali, il 90% dei processi rimane a carico di ignoti, non si riesce ad individuare l'autore. E purtroppo di fronte a un carico eccessivo di lavoro è impensabile di poter applicare lo stesso impegno agli stessi reati. Assolutamente non vengono trascurati, non c'è nessuna direttiva, ma è un problema contingente di fatto. Senta, procuratore, lei è stato per 12 anni nella Procura Nazionale Antimafia e lei sa bene come il senso di legalità diffuso vada poi a braccetto con le attività della criminalità organizzata, ovvero dove non c'è la sensazione che la giustizia possa agire, poi la criminalità organizzata ha terreno fertile per attecchire. Ma davvero pensa che questi reati che abbiamo nominato, scippi, furti, rapine, possano essere liquidati come minori? Assolutamente no. Io sono convinto che questi reati colpiscono di più il senso di sicurezza dei cittadini. Io sono convinto che per contrastare la criminalità organizzata bisogna partire dai reati più piccoli. Gli scippatori, i rapinatori sono i futuri componenti del crimine organizzato. E quindi il mio rammarico è quello di non poter dedicare il massimo impegno anche ai reati minori, perché sono proprio questi che costituiscono il senso di fiducia dei cittadini nello Stato. Io uso dire non dobbiamo solo catturare latitanti, ma la fiducia dei cittadini. Allora, veniamo alle soluzioni. Lei ha messo il dito nella piaga. Se lei fosse ministro della giustizia oggi, qual è la prima cosa da fare? Ma io innanzitutto penso che il problema fondamentale nostro sia l'organizzazione. Noi abbiamo un'organizzazione a partire dalle circoscrizioni giudiziarie antiquata, 17 tribunali in Piemonte, una dislocazione del personale non più aderente a quelli che sono i fenomeni della criminalità sul territorio. E poi penso che dobbiamo accelerare molto per dare risposte rapide e concrete ai cittadini, quindi dobbiamo migliorare innanzitutto sull'organizzazione. Certamente nel nostro sistema il numero dei reati è spropositato, noi abbiamo 120.000 leggi penali attive a differenza di altri paesi occidentali che ce ne hanno 3-4.000 attive e poi soprattutto abbiamo un processo che è molto lungo, farraginoso, una giustizia rapida può essere una giustizia buona o cattiva, una giustizia lenta è una giustizia cattiva comunque, un paese occidentale non può permettersi di rispondere dopo 15 anni con una sentenza ad una domanda che i cittadini fanno se una persone innocenti o colpevole rispetto a un fatto di cronaca o di pubblica amministrazione molto importante. Parliamo anche di recidività, anche quella è una misura dell'efficacia dell'azione penale, insomma del disincentivo a ripetere il crimine. Come siamo messi in Italia? Ma in Italia abbiamo il più alto tasso di recidività, noi abbiamo certificati penali in cui ci sono dei delinquenti seriali, cioè che commettono lo stesso reato 10-15 volte nell'arco di poco tempo. Il record è stato a Napoli, in 2 settimane una persona è stata arrestata 4 volte per reati contro il patrimonio, arrestata, riscarcerata e ha commesso dei reati. L'unico che non è recidivo nel nostro ordinamento è il denunciante, il querelante, che una volta che presenta una denuncia all'autorità giudiziaria vede che la nostra macchina non funziona e non si ripresenta più. Questa è la più grave mancanza di fiducia e questo deve essere il nostro obiettivo, recuperare la fiducia del cittadino. Noi dobbiamo riuscire a dare pene certe nei confronti di tutti i fatti criminali che vengono commessi nel nostro territorio. E chi non lo sottolineerebbe, ma in pratica poi voi a Bari avete un modello? Ma noi stiamo facendo degli sforzi, stiamo cercando per esempio di confiscare le autovetture alla mafia e di utilizzarle per la procura perché non avevamo macchine efficienti, stiamo cercando di condizionare tutti i patteggiamenti della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, noi non facciamo lamentele, noi non facciamo piagnistei, noi vogliamo essere un pezzo dello Stato che lavora con gli altri per migliorare l'efficienza della giustizia penale. E abbiamo iniziato questa intervista chiedendole se la sua era una resa, invece vediamo che è agguerrito. È una sfida. Quindi possiamo stare tranquilli, era una provocazione, l'obbligatorietà dell'azione penale a Bari è viva e vegeta, insomma continuerete a svolgere indagini su furti e rapine? Senz'altro, anzi noi ce ne abbiamo circa 35.000 di processi pendenti. Procuratore Laudati, grazie per il suo tempo. Grazie a voi, buon lavoro. E dunque era Antonio Laudati, ha parlato anche nei suoi appelli della necessità di togliere dai procedimenti penali questioni che potrebbero essere risolte con un'ammenda, se pensi alle migliaia di persone in carcere per uno dei reati più rappresentati tra la popolazione carceraria, cioè la vendita dei CD contraffatti. Ci fermiamo per ora con la giustizia, torneremo tra poco a parlare di scuola. Pensate che gli studenti subiranno disagi con l'avvio di questo anno scolastico? Pensate che le attività didattiche verranno compromesse? Questo è il nostro sondaggio, votate sul sito www.radio24.it. E ben ritrovati da Irene Zerbini, alcuni numeri e quello per chiamare 800 24 00 24 in trasmissione per le vostre osservazioni sulla scuola, per i messaggi sms 349 238 6666. Ho detto scuola perché di avvio di anno scolastico parleremo oggi, ancora una volta si profila una situazione poco chiara nel caos tra tagli ai docenti, mancanza di presidi, 1600 scuole. Contemporaneamente però le famiglie devono anche affrontare un incremento di spesa del 5% rispetto all'anno precedente, questo secondo le stime di Federconsumatori, di Codacons, a fronte di una scuola che sembra aggravata però da problemi cronici. Intanto un precario su due non si vedrà riconfermato l'incarico, con disagi che si rifletteranno anche sull'organizzazione delle lezioni, sul sovraffollamento delle classi. Il ministro Maria Stella Gelmini ha dichiarato indispensabile il riequilibrio delle risorse. Voi come la pensate? Ritenete che gli studenti subiranno disagi con l'avvio di questo anno scolastico? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Votate sul sito www.radio24.it. In questo momento i sì hanno raggiunto il 55% e i no il 45%. Do il mio benvenuto a Giorgio Rembado, Presidente Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno, professore. Buona giornata. Emergenza anche presidi nelle scuole? Sì, c'è un vuoto di organico, mancano i presidi in 1600 scuole che corrispondono poco più che al 15% delle scuole italiane. Dunque, stando alla lista, in Lombardia ci sarebbe la fetta più grande delle assenze, cioè 327, a seguire c'è il Lazio con 135, il Veneto con 126 e via discorrendo. Una situazione su cui è urgente intervenire, perché come si farà in pratica ora all'apertura delle classi? Nell'immediato c'è un solo sistema possibile ed è quello del ricorso alle reggenze, il che vuol dire di affidare i 1600 istituti ad altrettanti presidi di altrettante scuole. Naturalmente la cosa deve essere il più presto possibile rimediata con un nuovo bando di concorso per i futuri dirigenti scolastici che però richiederà un paio di anni per l'espletamento delle operazioni concorsuali. Era un'operazione che si poteva fare anche con anticipo perché ovviamente nella programmazione degli organici si sa con certezza fin dall'inizio quanti sono i presidi che verranno a mancare per i pensionamenti di anno in anno dopo anno. Quindi non servono arti divinatorie, lei dice, per prevedere quali saranno i buchi in organico e quindi per provvedere a colmarli? No, assolutamente. È un dato ormai stabilizzato da molto tempo. I pensionamenti corrispondono grosso modo ad 800 presidi ogni anno, quindi all'8% delle scuole. Abbiamo aperto con i presidi perché è un elemento che si è aggiunto in questi giorni alla riflessione sull'organizzazione scolastica. Ci eravamo concentrati sui precari e sulla situazione di molti dei docenti che non si troveranno il contratto rinnovato. Naturalmente molti hanno seguito anche la vicenda personale di alcuni che sono addirittura in sciopero della fame. Hanno scelto questa forma estrema per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione. In questo contesto, la preoccupazione è naturalmente per le ricadute sulla didattica e per la qualità della scuola. Mimmo Pantaleo, segretario generale FLC, cioè della Federazione Scolastica dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. La situazione dei precari in Italia va inserita, dice il ministro Gelmini, in un contesto di razionalizzazione delle risorse. Nessun governo potrebbe assorbire 200.000 precari. Ma intanto non siamo di fronte ad una razionalizzazione delle risorse. Io credo che i termini vanno ben detti, ben spiegati. Noi siamo di fronte a tagli. Siamo di fronte a tagli epocali e a licenziamenti di massa epocali nella scuola italiana, nel senso che abbiamo 8 miliardi di euro tagliati in 3 anni per effetto della 133, 140.000 insegnanti meno, a cui si aggiungono migliaia di ATA, 22.000 precari che l'anno scorso non hanno trovato una supplenza annuale, 20.000 quest'anno. Tutto questo ha come ricadute, da un lato una condizione sulle persone che perdono il posto di lavoro disastrosa, e io penso che la ministra Gelmini dovrebbe avere più rispetto per la dignità delle persone, perché ho l'impressione che alcune volte vive in un altro mondo, non è in sintonia con le sofferenze che attraversano le persone, questo è sempre un male per chi governa. La seconda considerazione è che avremo un peggioramento della qualità dell'offerta formativa, perché attenzione, questi precari hanno garantito per anni alla scuola italiana di avere livelli di qualità accettabili, certamente una scuola che ha bisogno di tante riforme, di tante innovazioni, di tanti cambiamenti, ma se si peggiora ciò che di positivo c'è oggi, penso a ciò che è successo nella scuola primaria, ad esempio con l'eliminazione del modulo dei 3 insegnanti sulle 2 classi, e ciò che avverrà quest'anno sulla secondaria superiore attraverso tagli di materie ore sui tecnici professionali, o al fatto che avremo classi sempre più sovraffollate, non si mette mano a un piano di edilizia scolastica e di manutenzione. Se tutto questo alla fine viene definito riforme, beh, guardi, io credo che noi andiamo verso il baratro, andiamo verso una scuola pubblica che alla fine non sarà più in grado di mettere all'altezza gli alunni, di essere, diciamo così, all'altezza dei cambiamenti che stanno attraversando l'economia e le società. Ma qual è la richiesta del sindacato? Mantenere la situazione attuale? Ma guardi, io trovo un paradosso in tutta Europa, in tutto il mondo. Adesso non voglio scomodare gli Stati Uniti, ma insomma, se guardiamo anche all'Europa, si stanno facendo investimenti importanti nell'istruzione, perché si ritiene tutti che oggi più elevati livelli di apprendimento, migliore qualità formativa è fondamentale. Io credo che in questo paese ha bisogno di investire oggi fortemente, penso alle regioni del Mezzogiorno, insomma, sul proprio sistema formativo. Io non riesco a concepire il fatto che invece in questo paese tagli 8 miliardi, attenzione, non per fare un'opera di razionalizzazione, perché io sarei anche d'accordo a dire, guardate, tagliamo gli sprechi, ciò che prendiamo, ciò che riusciamo a recuperare, l'investiamo in qualità. Ad un grande piano di edilizia scolastica, ad esempio. No, qui si tagliano risorse alla scuola e vengono dirottate altrove. Voglio ricordare che l'eliminazione totale dell'ICI è stata fatta anche con le risorse sottratte alla scuola. Insomma, siamo di fronte a questi paradossi. Insomma, questo è il punto politico. Se si parte da qui, io credo che una serie di soluzioni anche al problema di precari, che attenzione, non ha creato questo governo, io su questo sono d'accordo con la ministra Gelmini, è frutto di tanti anni, diciamo, di politiche scellerate all'interno anche della scuola sul versante del questo è stato sottolineato dal ministro Gelmini, i precari sono un'eredità dei governi precedenti. Buongiorno anche a Giovanni Basini, presidente nazionale di Alternativa Studentesca, un'associazione di studenti vicina al PDL. Senta Basini, qual è la posizione di voi giovani? Buongiorno. Ma guardi, noi abbiamo una posizione abbastanza vicina a quella del governo sul caso delle proteste che sono in corso in questi giorni, perché abbiamo una visione, diciamo, di parte da studenti che notano come molte delle proteste siano in realtà non finalizzate alla richiesta di un livello superiore di investimenti sull'istruzione o sulla qualità, come diceva poco fa il segretario dell'FLC CGL, ma piuttosto al mantenere l'ammortizzatore sociale scuola, che è stato fino ad oggi il sistema. Diciamo che a noi che ci siano più professori per ragazzo della media europea non interessa, a noi interessa che ci siano buoni professori, e vediamo che l'unica parte politica che ha stabilito un sistema di valutazione dei professori negli ultimi decenni, perché non c'era in precedenza in Italia, è stato il centrodestra. Si trattava prima dei provvedimenti del ministro Moratti, adesso siamo arrivati ai provvedimenti del ministro Gelmini in materia, per chiarire finalmente chi produce e chi non produce all'interno della scuola. Perché... E dunque no alla scuola come serbatoio per posti di lavoro. Questa è in sintesi la vostra posizione. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E fino a questo punto il 55% di quelli che hanno votato sul sito di Radio 24 al www.radio24.it teme che la regolarità dell'anno scolastico verrà compromessa. Non sembra preoccupato invece di questo il 45%. Michele da Milano, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, volevo intervenire perché ho una moglie insegnante, una sorella insegnante, ho avuto una mamma insegnante, quindi credo di essere stato sempre abbastanza coinvolto nel discorso degli insegnanti, e ho vissuto, insomma, un deterioramento, ripeto, mia madre è insegnante, un deterioramento negli ultimi 30 anni di quella che è la situazione scolastica. Mia sorella ha due figli, 45 anni ed è precaria, insegna lingue. Precaria da 20 anni sostanzialmente. Poi ci lamentiamo perché non facciamo più i figli. Che prospettive ci sono per chi fa un lavoro come questo, che già di per sé è pagato una miseria rispetto a tanti altri? Mia moglie invece è di ruolo, ha avuto modo di fare degli scambi con altre, ha fatto il Comenius un paio di volte, quindi ha incontrato colleghi spagnoli, colleghi francesi, tedeschi, che guadagnano molto più di lei e che hanno una formazione, una programmazione, c'è una visione sostanzialmente, c'è una strategia. Io cosa qui... che lei non individua nella scuola italiana. Grazie a Michela, ha fatto una fotografia molto puntuale di generazioni e situazioni di insegnanti. Ricordiamo che gli stipendi degli insegnanti italiani sono dal 40 all'80% inferiori a quelli della media OCSE. Pantaleo, però, come ha sentito, alcuni dicono non è giusto fare della scuola un bacino di posti di lavoro, un serbatoio per la certezza di reddito che certe famiglie rivendicano. Cosa risponde? Ma intanto vorrei ricordare che non solo gli stipendi degli insegnanti italiani sono tra i più bassi della media OCSE a livello europeo, ma per effetto della manovra finanziaria sono stati bloccati per 3 anni gli stipendi ed eliminati gli scatti di anzianità, altro che valorizzazione e merito. Per quanto riguarda la storia del serbatoio, io non la penso così. Certamente nella scuola si sono accumulate tante contraddizioni sul versante del reclutamento. Penso a tutti i meccanismi infernali delle graduatorie, quelle di istituto, quelle di esaurimento, quello permanenti. Però in realtà noi non abbiamo più insegnanti rispetto agli altri paesi europei, perché voglio ricordare che nel computo degli insegnanti italiani vanno anche messo ad esempio gli insegnanti di sostegno, che in Germania, faccio un esempio, sono invece a carico del servizio sanitario. Quindi noi abbiamo sostanzialmente oggi un grande bacino di precari, perché si è concepita la scuola come un luogo di precarietà. Io penso invece che una scuola di qualità ha bisogno di stabilità. Ha bisogno di programmazione, ha bisogno di visione, come ci segnalava l'ascoltatore, la scuola di qualità. Dal punto di vista dei presidi, che a loro volta si trovano addirittura non precari, ma col doppio incarico, il doppio edificio da gestire, ci sarà però per voi, carissimo Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, un incremento salariale per chi accetterà la doppia responsabilità, diciamo? Tanto il problema non è di accettazione, perché l'incarico di reggenza è obbligatorio. Siete stati precettati in qualche modo. Ecco, viene imposto dall'amministrazione. Poi non escludo che ci possa essere qualche collega anche desideroso di avere il doppio incarico, però resta il fatto che è un incarico obbligatorio. E comunque anche la retribuzione che ne deriva è molto modesta, perché ammonta a circa 700 euro all'ordo al mese, per cui è un riconoscimento, voglio dire, quasi ideale, insomma, ecco, non un riconoscimento corrispondente al gravame e soprattutto al livello di responsabilità che un dirigente assume nella conduzione di 2 istituti scolastici che ormai corrispondono a 70, 80, 100 docenti ciascuno e a 20-30 unità di personale amministrativo tecnico. Senta, preside, mi dicono gli ascoltatori con messaggi SMS che comunque la scuola è un bacino di assenteisti cronici, riferito soprattutto agli insegnanti. Lei dalla sua cattedra di preside ha notato questo? Ma insomma, questa è una situazione che come sempre non si può generalizzare, perché è evidente che ci sono situazioni di migliore organizzazione del lavoro o di maggiore demotivazione. Certamente la professione dell'insegnante è una professione che ha portato non solo scarso prestigio sociale negli ultimi anni e decenni, ma anche una ben modesta motivazione all'esercizio professionale. Manca una carriera dei docenti, anche il ricorso al precariato per la copertura delle cattedre è un sistema che ha precluso ogni reclutamento selettivo e quindi non ne ha dato le sollecitazioni e le spinte necessarie ai docenti per potersi sentire corpo professionale qualificato. È svilente anche dal punto di vista professionale, infatti altrove non si fa o si fa poco. Ma come dovrebbe essere questa scuola attraversata da questi problemi cronici, costanti, che l'Italia sembra incapace di risolvere? Addirittura addirittura ci sono centinaia di scuole in cui deve avvenire la bonifica da amianto, un tema che abbiamo trattato proprio anche da questi microfoni. Al di là delle strutture fatiscenti e l'architettura, la struttura, il posto dove si sta per 5, 6, 8 ore al giorno quando si è bambini e poi ragazzi, è importantissimo. E ci sono problematiche legate alla mancanza di banchi in alcune scuole. Come dovrebbe essere una riforma della scuola che parta invece dalla didattica, dai modelli, dai contenuti? Silvia Vegetti Finzi, psicologa e scrittrice su temi scolastici. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Provi a darci alcuni suggerimenti lei. Innanzitutto vorrei esprimere la mia solidarietà ai docenti in lotta in questi giorni, che penso esprimano un malessere sociale a cui tutti siamo sensibili. Qualità della scuola, si sta pensando giustamente molto agli insegnanti, al loro malessere, alla loro demotivazione, e questo sposta l'ottica sul corpo docente, dimenticando, lasciando in ombra un po' gli studenti, cioè ci siamo dimenticati di indagare, di ascoltare quelli che sono i bisogni, le motivazioni dei ragazzi, dei bambini in particolare. Non sarebbe bello, Silvia Vegetti Finzi, all'apertura di ogni anno scolastico invece appunto mettersi a discutere su di innovazione, di modernizzazione, di motivazione degli studenti, di quali sono le esigenze a cui deve rispondere una scuola del 2010, non del 1923, anno della riforma Gentile? Sarebbe interessante in Europa potersi permettere il lusso di avere idee diverse su questo, invece che dover discutere sempre su assenze, cattedre, punti graduatorie e situazioni proprio svilenti per chi ci lavora. Ma sicuramente, tenga conto comunque che è difficile in Italia parlare di scuola, nel senso che ci sono delle situazioni molto differenti, per esempio tra nord e sud sono eclatanti, il tempo, quando si parla di tempo pieno è una realtà incisiva al nord, è un'eccezione al sud. Ma torniamo alle esigenze dei ragazzi, come dovrebbe essere questa scuola? Ma i ragazzi dovrebbero essere motivati diversamente, pensando a come sono cambiati negli anni. In fondo la figura dell'alunno, dello studente è ancora molto tradizionale, e anche dove si attua un tempo pieno, cioè le 40 ore settimanali, molte volte è una sommatoria, un cumulo di materie tradizionali. Il curricula sono ancora quelli della tradizione, che vengono soltanto incrementati, senza chiedersi appunto che cosa chiede la nuova realtà sociale a questi ragazzi e dove vivono, che cosa li interessa davvero. Io credo che dovremmo cambiare ottica, pensando che più della quantità di nozioni, che invece è ancora in primo piano, e più della un'esecuzione passiva burocratica dei programmi, dovremmo incentivare l'innovazione e la creatività, cioè che un insegnante si debba chiedere per prima cosa: ma che classe ho davanti? È una cosa molto diversa se prevalgono gli immigrati, ad esempio, se prevalgono delle famiglie in grande difficoltà economica e sociale, come sta accadendo in molte periferie, oppure se di fronte abbiamo dei ragazzi già acculturati dalla famiglia. Quindi lasciare all'insegnante e agli insegnanti, alla scuola, certo un collettivo insegnanti più che al singolo insegnante, di ritagliare entro i programmi ministeriali un percorso particolare, tenendo presente appunto che anche ci sono esigenze. C'è invece la spada di Damocle del programma, che va finito il programma entro la fine dell'anno. Preclude a molti insegnanti di partecipare a delle sperimentazioni di innovazione. Ad esempio alla Casa della Cultura di Milano abbiamo per alcuni anni con i pedagogisti milanesi della Bicocca e altri, abbiamo pensato di come sostituire il vecchio tema con nuove forme di espressione, e i ragazzi hanno risposto, i ragazzi del liceo, in modo entusiasta, liceo e scuole medie superiori. Grazie a Silvia Vegetti Finzi, devo salutarla, così come saluto Giovanni Basini, Mimmo Pantaleo e Giorgio Rembado, oggi nostri ospiti. Saluto anche tutti voi, il tema della scuola appassiona moltissimi gli interventi, continuate a votare sul sito www.radio24.it. Un saluto da Irene Zerbini.